Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli. Dunque, a che punto siamo? Siamo al punto in cui abbiamo un voto chiaro, ovviamente, con la maggioranza che conosciamo, non enorme, ma insomma chiara, come d'altra parte è ovvio che sia in un referendum su sì o no, e con una attesa che diventa pressione perché il Regno Unito attivi quei meccanismi che un referendum consultivo appunto suggerisce, ma di fatto non innesca. Tradotto, arriviamo alle dichiarazioni di questa mattina. Il leader della SPD, vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel, chiede ad Angela Merkel e agli altri stati membri dell'UE una linea chiara sui tempi e i modi dell'uscita dal Regno Unito dall'Unione Europea. Il governo, spiega Gabriel, deve dare un segnale di chiarezza invece di andare avanti con la tattica, deve attuare un'azione decisiva invece di continui rinvii. Insomma, cosa sta succedendo? Monta in varie parti d'Europa l'apprensione, anche il fastidio, obiettivamente, chiamiamolo col suo nome, di una scelta che poi viene rinviata, come dalle parole dello stesso ex primo ministro, o meglio primo ministro uscente Cameron, a ottobre. Ci sono delle richieste molto più rapide, ve ne cito una tra le tanti: Maroni, quindi presidente della regione Lombardia, che questa mattina dice ok, allora è tempo di portare in Europa, in Italia, l'autorità per il farmaco, l'agenzia europea per il farmaco, il tecnopolo della chimica e del farmaco è attualmente basato nel Regno Unito. Ecco, questo è solo uno degli esempi di tanti per i quali si chiedono decisioni rapide. Nel frattempo la Commissione europea che dichiara resta la dichiarazione dei quattro presidenti letta da Jean-Claude Juncker venerdì scorso, e dice quindi ci aspettiamo che venga notificato l'articolo 50 al più presto. Quindi così il portavoce è Margherita Schinas, precisando che per la Commissione non ci sarà alcun negoziato con la Gran Bretagna se non sarà stato prima notificato l'articolo 50. Un aspetto paradossale di questa situazione, che naturalmente rischia di creare dei danni nell'attesa e dell'incertezza. Molto lavoro in vista per gli avvocati, per gli esperti di trattati internazionali. Un punto su questo ce lo fa la nostra Livia Zancaner. Il governo italiano corre ai ripari e studia un piano di emergenza per intervenire, se necessario, nel capitale delle banche già deboli e che ora devono fare i conti anche con la Brexit. Gli aiuti di Stato però in Europa sono vietati per non falsare la concorrenza. Dunque, che margini di manovra ha il premier Matteo Renzi? Applicare le deroghe previste proprio dai trattati europei, ci spiega Alberto Saravalle, partner di Bonelli e Rede e professore di diritto dell'Unione Europea all'Università di Padova. In particolare quella che potrebbe essere invocata in questo caso è quella prevista dall'articolo sempre 107, terzo comma. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Norma che è stata invocata varie volte dal 2008 ad oggi e che ha dato luogo poi a comunicazioni della Commissione europea che hanno spiegato un po' a quali condizioni in quali situazioni possa essere effettuato questo intervento di emergenza dello Stato. Sotto i riflettori anche le nuove regole sul bail-in, introdotte a gennaio, che stabiliscono cosa fare in caso di risoluzione di un istituto di credito. Manca invece ancora la garanzia comune sui depositi, bloccata dalla Germania. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, e a proposito di temporeggiamenti, pochi istanti fa una nota del governo britannico che dice escludiamo la possibilità che possa tenersi un secondo referendum sull'Unione Europea, il che sembra assolutamente ovvio, non è che si possono fare referendum adesso tutte le settimane. L'annuncio ufficiale sarà comunque fatto dal Premier Cameron in un discorso ai comuni questo pomeriggio. E adesso dall'Europa della Brexit agli europei, con ovviamente una giornata ad altissimo contenuto. Un saluto a tutti voi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.